scritto sui denti. Carissimi amici, eccoci qui a questa che potrebbe essere, anzi potrebbe essere, facciamo che è proprio l'ultima puntata di questa serie speciale che volevamo fare su i film brutti. Dovevano essere degli episodi che uscivano molto ravvicinati tra loro e per un bel po' di tempo è stato così, poi è subentrato il Covid. Che il Covid è un po' come un film brutto, tutto sommato, no? Quindi giustamente è anche un po' in tema. Ma infatti sono stato incerto se fare questa ultima puntata, perché fino a ieri non avevo proprio neanche la respirazione per poter parlare. Però in realtà poi noi il film brutto l'abbiamo visto e quindi anche per rispetto di noi stessi, insomma, cioè della nostra dignità, ne parleremo. Ne parleremo come sempre con Marco Gualdi. Ciao, ciao. Sì, è bello avere il Covid. È molto, molto bello perché... come vedete un brutto film, infatti ti spezza un po' le gambe, ti fa male fisico e ti dà anche problemi alla memoria. Esatto. Come un brutto film. Esatto. Ma secondo me ce l'hai anche tu il Covid comunque. Ma non credo. Beh, d'altronde sei stato abbastanza a contatto con noi, quindi... Però, non comunque. Abbastanza, evidentemente. Ma mi sento che c'hai una voce un po' soffiata, capito? Un po' così. Io lo sento che c'è il Covid. Non succede perché non parlo mai praticamente. Sono giorni che non parlo, non vedo nessuno che non parla e quindi mi si è abbassata la voce. Che bello, che bello. Cioè è la stessa cosa che ho fatto io, solo che almeno io ero motivato. Cioè, diciamo... Eri motivato, io ero, sono motivato dallo schifo, quindi niente. C'è qualcosa di schifo che... Ma che tu fai schifo o fa schifo tutto il resto? Fa schifo il mondo e quindi sono stato a casa, l'ho fatto un cazzo. Ho capito. Va bene, allora ragazzi, abbiamo visto un film. Allora io... Adesso ne faccio parlare un po', lo faccio introdurre a Marco questo film, però voglio dire una cosa. Prima che film parli, io non so. No, adesso stai tranquillo, tu lo sai che film parlo. Però l'avrete letto, insomma, dal titolo di questa puntata. Cosa c'entra il Covid, un film horror e l'orso, come si chiama lì, l'orso Yogi? Yogi. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Ah, Winnie the Pooh. Ecco, Winnie cosa, the Pooh. Cosa c'entra il Covid, l'horror e Winnie the Pooh? E Winnie the Pooh. Perché insomma, io non pensavo nella mente umana, insomma, che ci fosse proprio. A volte si va proprio a scavare. Cioè, come faccio a fare una cosa così assurda? E poi adesso Marco ci spiegherà un po' gli antefatti della questione. Per questo che è un film oggettivamente brutto. Cioè proprio brutto veramente, però tutto sommato cioè, durante la visione del film noi abbiamo anche commentato, abbiamo anche parlato, quindi cioè, nel senso, abbiamo anche forse anche sogghignato, diciamo così, quindi tutto sommato il suo dovere l'ha fatto. Marco, parlaci di questo film che non abbiamo neanche detto il titolo ancora. Winnie the Pooh, Blood and Honey, quindi sangue e miele. Incredibile. Che è un bellissimo film, un instant movie lo possiamo chiamare, perché fu praticamente distribuito pochissimo tempo dopo che i diritti mondiali universali di Winnie the Pooh sono decaduti, per cui un po' come Topolino ultimamente. Pizzi, ho scoperto il film, il titolo del film. Ok, quindi vabbè, faremo una puntata speciale. Un altro Covid, quindi stai attento. No, diciamo che ha scoperto questo film che usciva, perché praticamente col fatto che i diritti su Winnie the Pooh erano stati pop così liberalizzati, tutti potevano utilizzare il nome, la faccia, il personaggio. E perché non utilizzarlo per fare un bellissimo film horror? Perché no? Ma voi direte un film horror animato, magari con un'animazione un po' dark? No, assolutamente. Un film horror live action con Winnie the Pooh. Sì, vabbè, che, già una versione distorta di Winnie the Pooh. Sì, è la versione di Winnie the Pooh abbandonato nel bosco dei 100 acri dal bambino che ho già dimenticato, come si chiama. Ma sì, ma chi so, ricorda. Perché cresce, ovviamente si fa i cazzi suoi, e questi abitanti del bosco dei 100 acri diventano tutti quanti degli psicopatici. E finiscono a mangiarsi tra di loro, ma non diciamo altro, perché insomma, cioè, questo film va visto, va assaporato, va gustato come un buon vino, insomma, perché... Sì, allora diciamo una cosa, che praticamente, come diceva Marco, sono decaduti i diritti, diciamo, forse il brevetto sul nome, sulla figura di Winnie the Pooh, e quindi questi hanno fatto uscire questo film. E come giustamente dice Marco, è successo anche con Topolino, e siamo lì, siamo curiosi anche con Topolino, perché però dice Marco, dice, questo l'hanno fatto al volo successivo, ma magari sapendo l'hanno già preparato, però in realtà già stavano a girare, quindi stavano lì già pronti per buttarlo fuori, capito? Esatto, anche se però voglio dire, guardando il film ci può anche stare che è un instant movie, perché cioè il film è un film, due location e quattro personaggi alla fine, no? E la cosa bella è che, anzi la cosa assurda è che ovviamente prendete un classico B-movie horror di questi qui, quindi con le solite cose dei ragazzi che si incontrano e vanno a fare la villeggiatura nel posto sperduto, il serial killer che li ammazza tutti male, no? Questo è un po' classico. Ci spruzzerei però pure un zinzinello proprio di la soldatessa alle manovre militari in mezzo, perché sì, pure è quel soft Eros, capito? Così. Sì, è vero. Secondo me non hanno, alla fine non hanno spinto, però avrebbero voluto. Secondo me avrebbero voluto. Lesbo poi, ovviamente, perché c'era insomma anche l'elemento lesbo. Anche lesbo. E quindi prendete questa classica configurazione. Però aggiungeteci questi personaggi deformi, questo Winnie the Pooh che non si capisce bene se è un uomo o se è veramente Winnie the Pooh, e comunque che ammazza tutti e poi se li mangia sgocciolando miele, che cioè, è la cosa che mi ha fatto un po' più schifo di tutte. Tutto sommato, sì, questa cosa. Si ingozza questo miele sporco di sangue, se lo butta in faccia, capito? Insomma, esatto. È un po' bucato veloso. Così si butta in faccia il miele, così, cioè, un po' la versione soft, insomma. Ma perché è brutto questo film? Questo film è brutto per. Allora, prima di tutto, un po' raccontiamolo, perché tanto sti cazzi lo spoiler, ragazzi, cioè, se ve lo volete vedere, ve lo vedete comunque, perché come vi ho detto è classico tipo di film, quindi lo sapete già come finisce, muoiono tutti, cioè. Perché la storia no, non muoiono tutti, vabbè, diciamo che muoiono tutti, muoiono tutti o quasi, insomma, tutto sommato chi... la storia è stupida, quindi la possiamo anche raccontare. Se volete proprio godere dell'opera, ve lo dovete vedere, perché lì ci sono tante chicche che vanno viste, non si possono raccontare perché perderebbero. Comunque la storia, delle come chicche, dicevo, incredibili. Winnie the Pooh e Oink Oink, no, come cazzo, allora, Winnie, io il maialino, allora io Winnie the Pooh, e poi c'era l'altro. Io solo sono magnato, insomma. Esatto, anche nel bosco arriva la siccità, arriva il freddo, arriva tutto, praticamente rimangono senza cibo, perché abbiamo capito che chi gli dava da mangiare era sto povero Cristo, mentre questi animali del bosco erano in realtà degli esseri deformi. Cioè tipo dei mutanti, cioè nel senso, c'era questo ragazzino che entrava nel bosco dei 100 acri e parlava con questi personaggi che potrebbero sembrare dei personaggi di fantasia, no? Cioè nel senso, era tutto nella sua mente, era un matto, e infatti nessuno gli credeva, compresa la sua ragazza, no? Invece in realtà lui dice sì, ti credo, però in realtà non ti credo, però esatto, infatti muore poi giustamente, perché della sfiducia muore. Però ecco, diciamo che praticamente questo lui invece con questi personaggi ci interagiva e li ha umanizzati, diciamo, li aveva, aveva creato insomma questo clima di amore, di rispetto, di dialogo, tutto molto bello, no? Però poi lui a un certo punto giustamente ha sentito il richiamo della figa, no? Cioè nel senso che c'è il richiamo della foresta e il richiamo della figa, cioè doveva andare al college, che in America significa richiamo della figa, e quindi è dovuto partire. In questa sua assenza, praticamente questi personaggi antropodeformi, mutanti, antropomostri, praticamente hanno sofferto la fame, perché non c'era più nessuno che gli dava da mangiare, che gli rubava il cibo per loro, e quindi hanno cominciato a mangiare quello che c'era. E quando è finito anche quello che c'era in natura, perché è arrivato grande inverno, e loro praticamente hanno cominciato a mangiarsi tra di loro. Per cui l'asinello che è esatto, molto più che mangiarsi fra di loro, hanno deciso mangiamolo di noi, e hanno scelto loro così arbitrariamente, e si sono mangiati io che è il primo che... E questa cosa non soltanto insomma li ha afflitti, diciamo, li ha addolorati, ma li ha riprecipitati nella brutalità e nella bestialità, cioè nel senso li ha immediatamente disumanizzati. Quindi tutto il lavoro che il tizio aveva fatto, che fino a qua sembra anche un film bello, eh? Cioè nel senso noi stiamo dando dei livelli di lettura a questo film, che stiamo parlando dei primi 3 minuti, tra l'altro disegnati a mano, quindi insomma. E secondo me se continuava a fare tutto così era meglio, non so se gli costava di più probabilmente, ma ne avrebbe guadagnato. Però insomma la storia comincia che praticamente il bambino mai cresciuto ritorna nel bosco dei 100 acri portandosi la ragazza e dice: guarda, questa per me è una cosa importante, tu lo sai, ti penserai mica che sono matto, eh? No, ma assolutamente non sei matto, però sei dei problemi, adesso vedremo che li risolviamo, insomma più o meno è così. E scoprono arrivando che tutto è andato in malora e gli unici due sopravvissuti, cioè Winky, mi sembra, sì, Pinky, come cazzo si allora chiama? Allora ti dico che praticamente ci sono diversi compagni di Winnie the Pooh nella storia originale, però se non erro lui c'aveva, questi compagni erano Io, che era ovviamente l'asino, e Pimpi. Poi ce ne sono altri che però non ce ne sono altri che però non sono presenti in questa storia, insomma. Forse si sono mangiati pure quelli. Comunque in ogni caso sono rimasti questi due, che sono diventati degli enormi omoni con la testa di gomma, perché praticamente fondamentalmente sono degli omoni con la testa di gomma, sono diventati questi mostri disumanizzati, completamente darchettoni, che appena lo vedono decidono di ammazzare lei davanti ai suoi occhi e di mangiarsela fondamentalmente. Sì, vabbè, loro qualsiasi, noi si capisce durante il film che nei dintorni di questo bosco dei 100 acri spariscono ogni tanto persone, quindi chiunque passa da quelle parti viene ucciso, compresi ovviamente anche loro vengono aggrediti, quindi il protagonista tra virgolette la cosa cominci subito dopo, mi sembra, che perché dopo, cioè dopo l'assalto a questi due c'è tutta la parte dei telegiornali che dicono scomparse, esatto, altre persone scomparsela, esatto. Quindi probabilmente esplode dopo. Ma questo non è chiaro, però diciamo che, ma non è anche importante, se dovesse essere così, cioè nel senso tu sai che in quella zona succedono ste cose, cioè vai con la Guardia Nazionale, sbrachi tutto, cioè nel senso, e non immagino un gruppo dei 5 ragazze che vanno a fare la villeggiatura affittando uno chalet proprio nel bosco dei 100. Che costava molto poco quello chalet. Esatto. Certo, c'era un motivo, però costava molto poco, insomma, quindi se lo sono potuto permettere. E quindi c'è questa che è la, diciamo, protagonista, che è questa tizia che è stata molestata da uno stalker quando era ragazza, qualche anno prima, credo, mi sembra. Ah sì, ci hanno aggiunto pure questa cosa. Da uno stalker, diciamocelo, incapace e un po' anche idiota, che non solo si fa sgamare ma si fa pure arrestare, da quello che ho capito, cioè nel giro dei 3 secondi praticamente fa una finaccia, e la cosa più, cioè fa una cosa ghiacciante, cioè penetra nella casa di questa poverina e gli sposta le bretelline del reggiseno, dopodiché lei urla e viene arrestato. Questa è la cosa, esatto, è traumatica, cioè comunque è una cosa brutta, però capisci pure che c'hai avuto a che fare con un coglione, fortunatamente. C'era quindi molto più erotismo in un film come Entity, diciamo così, eh? Esatto, lì succedevano belle cose, insomma. Invece qui no, qui il fulcro è Winnie the Pooh, quindi loro decidono, di lei e le altre amiche, tra cui due, una coppia lesbica, e decidono di andare un po' fuori città per schiarirsi un po' le idee. Pure lei, insomma, confida a tutte quante che c'ha avuto sta brutta cosa, perché la sua psicanalista gli ha detto: guarda, apriti, racconta, scarica un po' questa cosa qui, questa tensione. E quindi tutte insieme decidono di fare questa bellissima gita fuori porta in un bosco maledetto, fondamentalmente. Però chi vuoi che sia, la location era quella che è, vanno in questa villa sperduta, dove una di loro ha questa brillante idea, che giustamente qualcuno deve averci questa idea, cioè di prendere i cellulari di tutti e nasconderli, perché dovevano essere completamente al di fuori della civiltà, quindi fondamentalmente dovevano lasciar perdere tutti quelli che sono i social, la connettività. Infatti una di loro ha un doppio cellulare che fondamentalmente non servirà poi a un cazzo nella storia, perché farà una brutta fine insieme alla proprietaria. E che succede? Succede che poi arrivano Pooh e gli altri. Pizzi. Eh sì, arrivano Pooh e gli altri. È l'altro più che altro. Cioè. Esatto, è l'altro e Pimpi. Pooh e Pippi, che praticamente, allora, il problema è che, come in tutti i film horror, vabbè, qui in maniera ancora più limitata, perché qui veramente, ragazzi, alla fine oggettivamente non succede un cazzo, se non arriva questo che, come al solito, cammina a due all'ora, però comunque sfragna tutti, ma c'è, cioè, l'unica cosa veramente carina del film è che li sfragna male, diciamo, e questa forse è la cosa più, tipo, a un certo punto una la prende, la inchioda per terra praticamente, e gli passa con la ruota della macchina sulla capoccia, esplode la capoccia, quindi l'occhio di fuori, così, ecco, insomma, diciamo, è molto splatter, proprio perché è l'unico elemento veramente interessante del film. Ma come in tutti i film horror, soprattutto, succedono cose che sono sempre il contrario delle cose che uno farebbe o che dovrebbero succedere nella vita reale per quantomeno provare a salvarti, no? Tipo, a un certo punto, sono due di queste tipe che hanno un'arma, hanno una pistola, e si appostano praticamente nella parte della scala in alto, e si affacciano di sotto per guardare, e vedono praticamente Winnie the Pooh, mi viene ancora da ridere che lo devo chiamare così, che passa davanti a loro e potrebbero tranquillamente sparargli quantomeno due o tre colpi in testa, poi magari non muore, non lo sappiamo. Ma loro non lo fanno, e gli passa davanti due volte, insomma, e questa sarà ovviamente la cosa fatale, perché poi da lì in poi nessuno potrà mai fare niente. E però che succede a un certo punto? Succede che una di queste, non mi ricordo quale, forse l'ex traumatizzata, a un certo punto riesce a uccidere Pimpi. Cioè, sì, in tutto questo delirio, no, gente che muore, lei si incazza a un certo punto, forse perché proprio trova la forza in se stessa, riesce a ammazzare Pimpi. E questa cosa, ovviamente, è male, molto male. Ancora più Pooh. Esatto, è molto male, perché non ammazza neanche con la pistola, perché giustamente loro trovano una superstite che stava lì per essere mangiata, la liberano e si fanno inculare la pistola da statizia. Ah, è vero, sì. Che ovviamente. Che poi, che fine, cioè, fa? Manco muore. Ammazzarli, spara. Non è, come ricordo bene, spara un colpo e non lo manca, una cosa del genere. Non mi ricordo che cazzo fa. Comunque, poi gli si inceppa la pistola, e la proprietaria della pistola dice: ah, beh, sì, non funziona bene. E tipo, ma che cazzo c'è? Ma come ti appresenti? Cioè, in giro con le pistole che non funzionano bene. Ma che e lo sai anche, fatto? Lo sai anche. Cioè, lo sai pure. È perché lo dà. Portare... No, visto che non sparavo tanto, non funziona. Lo doveva riportargli al pistola store, dove gliel'avrebbero poi sostituito, ma non c'ha avuto tempo. È una pigra. E vabbè, ma muore poi l'ex superstite. Non è come ricordo, sai. Vabbè, comunque. Sì, gli taglia la gola alla fine. Ah, ok. Comunque, alla fine, in tutto questo, qualche cosa che non ricordo, perché Pooh sta sempre zitto perché sono regrediti e hanno deciso di non parlare più. E dice una cosa alla fine, ma non mi ricordo che cosa. No, ma non è che te ricordi, non si è proprio capito che dice. Sì. Vabbè, comunque, ma al di là di questo, tra l'altro, il loro amichetto da bambino, che era andato lì con la fidanzata all'inizio, fidanzata che muore praticamente immediatamente, noi pensavamo che anche lui fosse stato ucciso, invece no, lui viene tenuto catturato per un indefinito tempo, perché non lo sappiamo, e ogni tanto Winnie the Pooh va lì e lo frusta per punirlo del fatto che per colpa sua loro si sono disumanizzati e diventati in quella maniera lì. Sono dovuti mangiare l'asinello, e poi praticamente comunque loro lo liberano, perché loro liberano gli altri, no? Invece pensa a andarsene a fanculo de corsa nel momento in cui hai visto la prima cosa strana, e no, loro continuano a liberare gente, e alla fine, insomma, c'è questa, anche ricordarti che, insomma, tu quando sei una persona, una giovane ragazza, Pizzi, mettiti nei panni di una giovane ragazza, eccomi, okay? Eccomi. Tocca dire tette, perché lo facevano. Io ho capito che tutte le giovani ragazze si toccano, Le tette per misurarselo, certo. C'è pure una canzone di Claudio Baglioni che ne parla di questo. E ti stai facendo un bagnetto alla piscina, alla piscinetta, facendoti selfie, e a un certo punto, sì, incredibile. Quella è la prima che muore. Foto, alle tue spalle c'è uno con la maschera di gomma da orso, che potrebbe essere uno con la maschera da gomma, ma in realtà sappiamo che è Winnie the Pooh. E tu che cosa pensi? Che sia lo stalker dell'amica tua? E malgrado che tutto, in teoria dovrebbe stare in galera, in teoria dovrebbe stare in galera. Stalker, aiuto, aiuto. No, no, diceva vaffanculo e te rimetti a fare i cazzi tuoi. Allora, questa, perché, sì, cioè. Allora, questo ti dimostra proprio la, ma neanche la scarsa qualità, perché poi in realtà poi alla fine secondo me è pure voluto, cioè nel senso gliene fregava a questi, descrive un film fatto come si deve, non gliene fregava un cazzo. Quindi praticamente lei, a parte i primi due, no, all'inizio, cioè la prima vera vittima, diciamo, del blocco centrale del film è questa tizia qua, che in una piscinetta esterna all'interno di uno chalet in un bosco di notte in un posto totalmente sperduto, se sta a fare i selfie vede appunto, insomma, si accorge che c'è sto tizio, gli strilla e invece di, appunto, come dice Marco, di scappare, dice sai che c'è, io continuo a farmi i selfie. Meriti di morire, no, nel senso, io quel caso ho fatto. Ricordo, cioè, diciamola queste cose: di tutti i personaggi morti ammazzati da Winnie the Pooh, di quale ti è dispiaciuto? Nessuno, devo dire nessuno. Anzi, cioè, ah, vai, questo l'ha fatta fuori, che bello, via. Cioè, l'unico che un po' ti sarebbe potuto dispiacere è proprio un ragazzo, sì. Perché fondamentalmente lui non ha fatto niente di male, cioè semplicemente ciao, fatevi i cazzi vostri, se n'è andato. L'unica colpa sua è quella di averci avuto una vita, insomma, deve diciamo il richiamo da cresciuto fondamentalmente, esatto. Eh sì, alla fine l'unica tutta, insomma, la prima l'unica persona per la quale veramente dispiace, cioè ti dispiace per il ragazzo che poi non è chiaro neanche che fine fa, però. E qui, ragazzi, purtroppo bisogna dirlo, perché 10 minuti dopo aver chiuso, cioè quando l'editor è andato dal produttore e ha detto: "Dia, questo è l'hard disk col film montato, tutto pronto, potete tranquillamente distribuirlo", loro hanno preso e hanno iniziato a girare subito dopo il seguito, perché c'è un seguito, ragazzi, incredibile. E non lo so se lo vedremo, devo dire la verità, non, cioè, devo dire, ne deve proprio valere la pena, ma soprattutto, ecco, cioè, nel senso, la cosa è che siamo un 4-5 tutti insieme a vedere se si fanno risate, se no non è giustificabile vedere un seguito di una porcata del genere, dove praticamente c'è solo gente che muore male, soltanto che invece il tizio deve essere, che ne so, quello di venerdì 13, gente, che magari... Ma gente che muore male è praticamente la trama di tutti i Final Destination che sono state fatte, esatto. Ma non solo i Final... Non solo i Final Destination, cioè nel senso in generale tutti i film horror di cassetta di questo genere qua sono tutti uguali, cioè se tu prendi pure la trama di Until Dawn, no, di Supermassive, il videogioco che abbiamo fatto, cioè il concetto è sempre quello. Ora, che sia un'entità soprannaturale, che sia un pazzo serial killer o quello che te pare, sono sempre sti teenager coglioni che comunque vanno in un posto talmente isolato che non ci sarà mai nessuno che ti potrà venire a salvare, puoi strillare quanto te pare, e l'entità, il soggetto che li sfragna tutti, ecco, questo è un po'. Solo che magari a volte qualcuno si salva, invece in questo caso non si salva nessuno, insomma, ed è bello perché proprio nel momento in cui tu sfragni Winnie the Pooh in maniera, pensi, irreversibile, lo sai già dentro di te, quindi non c'è nessun pathos in tutto questo, cioè nel senso non c'è la cosa oddio risuscita, non è morto, no, lo sai che succederà, infatti lui tranquillamente con nonchalance, nonostante tutto, è morto. Sì, ma perché mi scrivi? No, ti ho mandato il link del prossimo film che dobbiamo vedere. Ah, ok, va bene. Però durante la stagione, regolare. Perché sì. Per adesso basta, ci siamo sporcati sufficiente. Collegati rapido un secondo e vedi soltanto la prima pagina, insomma, perché la scheda di IMDb. Allora, la scheda di IMDb che gli dà un ben 2.5 su 10, quindi insomma secondo me questo merita veramente tanto, insomma. Oh, ragazzi, è quello che dicevamo prima, insomma. Dopo mi guardo il trailer, così almeno mi rendo più conto. Beh, questo l'avrei vabbè, c'è l'immagine che mi ha fatto ridere subito, però vabbè. E diciamo che questa l'avremmo visto comunque, perché ora che ne sapevo dell'esistenza non potevo esimermi, ma si immagino che sia poi cioè immagino che siano sempre le stesse cose, insomma, in buona sostanza. Qui un po' tirato da quello di Mickey Mouse, invece è un serial killer con la maschera di Topolino, quindi già è un po' più, insomma, credibile. Credibile, insomma. E certo, certo, vabbè, comunque, vabbè, dai, comunque ricordiamocelo, Winnie the Pooh, sangue e miele, o miele e sangue, adesso non ricordiamo, lo trovate. Blood and Honey. Sì, lo trovate, penso, abbastanza facilmente nei vari, insomma, server, nei vari, insomma, servizi di on demand, su Netflix, Prime, cercatelo, insomma. Attualmente Winnie the Pooh sta su Prime. Ah, su Prime. Su Prime. Se, ecco, la cosa bella è che genialmente, secondo me, l'hanno fatta apposta, perché così quando tu servizio di streaming metti questo servizio nel tuo catalogo e c'è il genitore che va a cercare un film di Winnie the Pooh per i tuoi bambini, c'è il rischio che te vedi questo. Esatto. sarebbe bellissimo esatto, cioè voi dovete immaginare praticamente la scena: papà mi metti il cazzo animato Winnie the Pooh, lui accende, rompe il cazzo, fa la ricerca esatto. Su Amazon Prime tramite la lente scrive Winnie the Pooh e gli appare l'elenco, e nell'elenco c'è sta la copertina di sta cosa che mette paura già, insomma, il bambino si traumatizza per sempre. Questo è un po' come Me con Phantasm, di cui parleremo un'altra volta, no? Non è un film brutto quello, è un film brutto. Secondo me è bellissimo. Era bellissimo. Non possiamo vederlo, purtroppo. Va bene. Allora, questo è Winnie the Pooh. Il tuo giudizio individuo personale su questa. È una bella merda. Bella merda. Devo dirlo. Cioè, allora, non c'è una scala che va da Creators the Past fino al capolavoro assoluto, che non so quale potrebbe essere. In the market. No, in The Market, secondo me, allora, qualitativamente, secondo me, migliore questo, cioè come qualità, secondo me. Beh, si è girato. The Market sì. È molto più dozzinale anche nel come è girato, come è montato, questo bene o male, cioè un minimo di professionalità ci sta, sì, poi no. Non sanno quello che stanno facendo in realtà, però quel minimo di professionalità ce l'hanno. No, è girato bene. È girato sicuramente meglio, perché comunque sì. Gli americani ce l'hanno quella cultura, no? Cioè, nel senso, anche il più zozzone comunque farà sempre cose migliori, proprio perché escono da quel tipo di cultura, da quel tipo di immagine, no? Quindi questo indubbiamente, la fotografia, non ti dico c'è una gran fotografia, però c'è una cura nell'inquadratura, la fotografia, nell'utilizzo delle luci, quindi insomma, dai, non è, è tutto il resto che è sbagliato, insomma. Non si può salvare nulla. No, assolutamente no. Però c'è una scena che lì si vede proprio la qualità pure registica, no? Nel senso che è completamente dozzinale. C'è una scena proprio nell'atto finale, quando Winnie the Pooh sta per uccidere l'ultima tipa, che c'è questo momento drammatico dove il tizio, il ragazzo, insomma, cerca di convincerlo che lui rimarrà lì con loro, che li aiuterà a tornare, li aiuterà, poi è rimasto solo Winnie the Pooh poi fondamentalmente, e c'è praticamente il Winnie the Pooh che tiene la ragazza pronta per sgozzarla, praticamente si vede lui col braccio che si rilassa, tipo che sembra che sta per lasciare il coltello, ma tu lo sai già che non succederà, e quindi non c'è nessuna sorpresa. È una sorpresa perché tu vedi sto film e sopravvivi. Sì. Questo quindi sì. Dici, beh, però tutto sommato poteva prendere un ictus. esatto, siamo sopravvissuti anche a Winnie the Pooh. Sangue e merda. Esatto, quindi devo inculami anche tu. Vabbè, dai, questo è un po' il... È un film che probabilmente sta su YouPorn, non vorrei dirti niente. Winnie the Pooh, inculami tu, adesso lo cerchiamo dopo. L'ha sicuramente fatto meglio. Esatto. Ma guarda, devo dire che non faccio fatica a immaginarlo. Allora, facciamo una cosa, noi adesso ci sentiamo una sfilza di film brutti visti dagli altri. E poi Marco torniamo per i saluti finali e insomma noi ringraziamo intanto Giuseppe Pugliese che è contento, insomma, si è divertito molto ascoltare le nostre puntate, e ha detto che pensava di aver detto il titolo del film al quale lui faceva riferimento, però poi in realtà non l'ha detto, e me l'ha scritto da qualche parte ma adesso non lo ritrovo, quindi questo film di cui lui ha parlato resterà sempre un può essere? Non c'è tempo. Il film è Non c'è tempo. L'ho trovato a per bucio de culo proprio. E poi Mario Trani, insomma, sono arrivati anche dei suggerimenti per prossimi film. E vabbè, poi ne parleremo, insomma, durante il prossimo inverno. Allora, ascoltiamoci un attimo tutta questa carrellata e poi con Marco i saluti finali. Ciao Simone, un saluto a tutti gli amici di Runtime Radio. Beh, da ex, diciamo, studioso di cinema, avendo frequentato il DAMS, mi piace innanzitutto rispondere con una premessa alla tua domanda, ovvero che non esistono film brutti o film belli, ma finché si è visto è film da vedere. Detto questo, comunque, sicuramente il film più brutto che ricordo fu durante la mostra del cinema, mi pare di fino agli anni 90, forse 98, 99, adesso non ricordo esattamente. In quel periodo frequentavo il DAMS, quindi riuscii a tenere l'accredito cinematografico che equivaleva all'epoca all'accredito stampa. Quindi andavo a vedere i film in sala insieme a tutta la stampa dedicata, e quindi anche un giorno prima, tra l'altro. E feci una scorpacciata pazzesca di film, cioè tipo ne vedevo 5-6 in una giornata, che beh, per lo tosto, cioè non riuscivi a finire un film che dovevi uscire, mangiare qualcosa proprio al volo mentre passavi da una sala all'altra e non andavi a vedere mai. In una giornata estenuante, in un pomeriggio tanto caldissimo, in una sala, adesso non ricordo quale sala, cominciarono a trasmettere un film come questo che si chiama Dancing at Lunasa, o come chiamano, ballando a Lunasa, che è questa storia di questa famiglia irlandese con un padre, mi pare, se non mi ricordo, che viene chiamato, arruolato per combattere Francisco Franco, insomma, come l'estri. Due coglioni incredibili. Cioè, tutto il film, ogni volta che succedeva qualcosa, questi si mettevano davanti al lago e ballavano, e ballavano, e ballavano, e ballavano, e ballavano, e moriva uno, ballavano, trombava uno, ballavano, qualsiasi cosa succedesse, ballavano. E quindi ho preso una colossale piomba, dormendo incredibilmente durante la sala, cioè tipo i primi 25 minuti, perché ho preso un sonno pazzesco. Io non so quanto dura il film, non l'ho mai voluto vedere, due palle pazzesche, però ricordo che quando mi sono svegliato mezza sala dormiva, e ovviamente la sala erano tutti, come ho detto, dei giornalisti di settore, ed erano tutti imbarazzati perché bisognava scrivere anche qualcosa di questo film, hai capito? Io ero mezzo sconvolto, sai, con la bava alla bocca, e guardavo questi che mi guardavano, ma tu cosa scrivi? Ho detto, no, guarda, io non sono giornalista. Allora, niente, ascolta, te ne hai fuori a quello della stampa e vedi un po' cosa dicono le recensioni, poi non c'era tanto internet all'epoca, e scriviamo la stessa cosa anche noi. Quindi un film veramente bruttissimo, non ho il coraggio di assolutamente di vederlo. Se voi volete provare di vederlo, guardatelo, ma ve lo dico, per me due coglioni pazzeschi veramente. Allora si scrive Dancing at Lugnasa, però non si legge Lugnasa, si legge Lunasa, è irlandese, ed è due coglioni incredibili. Poi questo mood praticamente c'è un po' stile quasi cioè ha un tipo di lingua, tipo il trono di spade, roba un po' così, però dove non succede mai un cazzo di niente, ecco, questo non l'ho detto, mi dispiace, ma ero incenso e non ci ho pensato, non succede assolutamente un cazzo di niente. Quando succede qualcosa e tu non vedi quello che succede, ma si dicono e John Anthony è morto, e pianti di due ore e dopo via sul lago a ballare queste musiche, musiche celtiche, due coglioni, solo balli, io che una piomba incredibile, incredibile. Ma mi sono svegliato stravolto e pensa che è stato l'ultimo film che ho visto la giornata, poi sono tipo le 4 del pomeriggio, perché la poi sono proprio non fai più niente. Beh, comunque è un altro fuoco che diceva che sono film belli o film brutti, ma film che si è visto e film da vedere. Anche se in giro trovi che va detto che il libro, secondo me è film che non l'ha detto questa cosa. Ma almeno il Dams mi aveva detto così, poi sai. Il film più brutto mai visto, non so se resisto. Ciao, sono Luca e voglio parlarvi del film più brutto della mia vita, come mi ha richiesto Simone. Bisogna tornare al 1985. Avevo 9 anni e sono andato al cinema con la mia famiglia a vedere un film con protagonista Walter Matthau. Era insomma un signor attore. Ma quando fece questo film, cadde. Il film si chiama Dinosauri a colazione, se lo ricordano in pochi, credo che non si trovi neanche in streaming. Però ha una trama veramente terribile, perché l'idea è anche buona di partenza, il regista è buono, ma il film è brutto, sono 79 minuti di inutilità. Io ricordo che mi misi al cinema con mia mamma, mio papà e i miei due fratelli, evento anche questo molto raro, e il film parte con un produttore che promette a un altro regista di fare un film sui dinosauri, perché negli studios c'è questo dinosauro inutilizzato, e dopo 79 minuti non lo fa. La cosa meravigliosa è che quando si sono riaccese le luci della sala, tutti quanti hanno detto: fermi, no, non alzatevi, perché ci sarà un terzo tempo. C'è un terzo tempo di questo, non credo proprio, sai, meglio cambiare. Infatti all'epoca, negli anni 80, era previsto il terzo tempo, ma non c'era. Era semplicemente un film brutto, ma non brutto trash, brutto e basta. In pratica si assistono a 79 minuti di nulla, in cui Walter Matthau va a fare questo film sui dinosauri, ma non riuscendoci. È il film più brutto della mia vita e lo consiglio veramente di vederlo, perché molti me lo chiedono, dico: ma è il film più brutto che hai visto? È Alex l'Ariete. Sì, ma Alex l'Ariete è un film trash. Questo è un film che vuole essere, ma non è. È una storia a colazione, che strana situazione, suono di trombe e canzoni, che buffe visioni. Il film più brutto mai visto, non so se resisto. Pensavo fosse diverso, un errore di percorso. Volevo fare un film sui dinosauri. Alla fine non lo faccio più, meglio restare fuori. C'è un terzo tempo di questo, credo proprio, sai, meglio cambiare sceneggiatura, tornare alla realtà. Vediamoci un altro, magari un bel cartone. Dinosauri a colazione, mai più una tentazione. Volevo fare un... Allora, di film come quelli descritti da buon Simone, che veramente alla fine mi sono guardato allo specchio e ho detto: ma queste 2 ore e un quarto della mia vita chi me le ritarrà mai? E era già, ce ne sono stati tanti nella mia vita. Qualcuno l'ho visto anche per colpa di Runtime, tipo quando ci siamo visti tutti insieme Creators The Past, per poi farci un podcast che insomma negli anni è diventato leggenda. Però ce n'è uno in particolare che io ancora ricordo con un misto di affetto e terrore, ma più il secondo, che si chiama Il marito della moglie. È un film medio orientale che parla in una chiave molto romantica di un argomento in realtà molto d'attualità, che è il conflitto tra Israele e Palestina. Venni trascinato, non dico di peso ma quasi, da una ragazza che frequentavo all'epoca al cinema, vedere questo film d'autore di cui si dicevano meraviglie. In pratica ruotava intorno al dramma di una famiglia palestinese che coglieva in casa un ragazzo che aveva evidentemente perso la memoria e che sembrava non ricordare nulla del suo passato. Il rapporto tra marito e moglie di questa famiglia è assolutamente in crisi, e questo ragazzo diventa letteralmente l'amante della moglie dell'uomo che l'ha ospitato, cosa che quest'uomo accetta perché vede la moglie felice. E pian piano però ricominciano a riaffiorare il corpo veramente di questo ragazzo, che si scopre essere in realtà un ebreo ultra ortodosso che aveva perso la memoria a causa di un trauma. quindi si intrecciano tutti i problemi legati alla convivenza italiana e palestinese, insomma una cosa atroce, vista attraverso gli occhi di un uomo che sembra quasi essere felice del fatto che la moglie lo stia tradendo, anche quando poi scoprono che l'amante della moglie, cioè il nemico storico della sua etnia. Quindi una roba assolutamente atroce sotto tutti i punti di vista. L'ho guardato fino alla fine, a un certo punto neanche perché volevo far contenta la persona che stava con me, perché a un certo punto pure sti cazzi, ma proprio perché volevo capire dove cazzo stava andando a parare in questa apoteosi di bruttezza, perché poi era pure recitato male, o forse non era recitato male, era solo doppiato molto male, visto che era insomma doppiato in italiano. Però veramente una cosa atroce, veramente. Io ancora oggi mi chiedo come abbia fatto a vederlo intero e a non lasciare la sala a metà, cosa che ho fatto poche volte nella mia vita, ma quel film veramente se la sarebbe meritato. Non so neanche se sia ancora disponibile, perché negli anni mi è capitato di cercarlo giusto per farlo vedere agli amici, per farsi poi risate, per capire che cosa mi era toccato vedere nella vita, ma in realtà non riesco più a recuperarlo adesso. Giusto per aggiungere un minimo di colore a questa storia triste, la stessa persona che mi portò a vedere questo film, qualche settimana dopo mi portò a vedere una rappresentazione, diciamo così, abbastanza sui generis di teatro no giapponese. Io non vi dico niente, andate su YouTube, cercate teatro no Giappone, vi guardate due video e pensate che io sono stato là due ore. Vi voglio bene, ciao a tutti. Allora, ringraziamo intanto Andrea Trevisan, che ha visto questo film irlandese di cui non abbiamo capito il titolo neanche questa volta, anche se poi l'ha ripetuto, dove praticamente insomma questo dramma dove c'è la gente che balla, e lo posso capire. Grazie anche a Luca Casciola, che ha visto Dinosauri a colazione. Io non sapevo neanche l'esistenza di questo film. Quello con Walter Matthau. Walter Matthau, esatto. E poi ringraziamo alla fine anche Puccio, che pure lui ha visto questo film incredibile di un tizio che perde la memoria, viene accolto da una famiglia palestinese e quando lui poi ritrova la memoria si ricorda di essere un israeliano ortodosso e non so poi come va a finire. Non so come va a finire il film, però complimenti Puccio, insomma, grandi film. Detto questo, io direi che insomma film che alcuni non ne sentiremo mai la mancanza, ma non sentiremo la mancanza neanche di Winnie the Pooh, devo dire la verità. Però, sapevo, Marco ce l'aveva da un po' di tempo questa cosa, no, lo dobbiamo vedere, anche se io nel frattempo ho visto altri film brutti, devo dire, perché durante questo periodo di Covid, e magari poi ne parlerò insomma in separata sede, perché purtroppo di quelli gratis, quelli che Marco si addormenta, ho visto altra roba, ragazzi, che è tosta veramente. Però insomma a volte devo riconoscere anche un po' la buona volontà, invece secondo me su Winnie the Pooh non gliene poteva fregare, l'hanno fatto proprio intenzionalmente così e tutto sommato è il motivo per cui va apprezzato, no? Poi con Marco dicevamo, vabbè, ma c'è anche Uwe Boll. Sì, ma Uwe Boll, cioè, non è un coglione, cioè, nel senso, Uwe Boll è un produttore cinematografico con dietro una produzione seria e quei film di merda che fa li fa intenzionalmente di merda, quindi secondo me l'intenzionalmente un po' perde la naturalezza. A noi ci piacciono proprio i film quelli proprio brutti, perché non sei buono a fare il film, capito? E però gente come Deborah mi dice, ma perché? È vero, cosa risponderesti Marco a questa domanda, ma perché? Beh, sempre meglio della droga. Esatto. Secondo me è un'ottima scusa. Oddio. Poi dipende, cioè non tutti potrebbero. La droga, però normalmente è meglio quella. Esatto, cioè nel senso non tutti potrebbero essere d'accordo con questa tua tesi. Va bene, sì. Dai. Ci risentiamo fra pochissimi giorni, fra un paio di settimane, insomma, con l'inizio della stagione regolare di Runtime Radio e anche dei Pop Corner, dove torneremo a parlare delle cose brutte ma diversamente. E anche quest'anno avremo la stessa sigla? Non lo so. Ecco, come lo sai, dipende sempre da quel fatto. Non mi ricordo. Dipende sempre da William Shatner. Quindi. Ah, è vero. Ma io la devo ancora usare quella sigla, perché non so se l'abbiamo mai usata. Quella, quelle... Sì, come no? Ok, allora sì, avremo la stessa sigla che è la famosa sigla effetto farfalla, cioè nel senso che è una sigla che per ora è così, poi un giorno sarà diversamente. Ma noi ci auguriamo di sentirla per sempre questa sigla. Esatto, ma poi c'è pure il rischio, perché io qua sono preoccupato, insomma, sul fatto c'è il rischio che chiude la trasmissione. Esatto. Cambia nome. Quello è il rischio maggiore, secondo me. Cioè, i bookmaker danno come rischio maggiore che finisca prima la trasmissione. Esatto. No, beh, ma d'altronde c'è questa cosa, insomma, che inizio a tremare per la mia incolumità rispetto alla mia sopravvivenza al personaggio di William Shatner. Però vabbè, insomma. Vabbè, ragazzi, buon fine ferie, insomma, perché oramai siamo arrivati a fine ferie. Io torno a morire nel letto e ringrazio Marco Gualdi per questa ennesima piccola avventura estemporanea che abbiamo fatto quest'estate. E pensare che avevo fatto di tutto per dimenticarlo questo film e c'ero quasi riuscito, ma no, niente. No, perché l'avremmo dovuto registrare il giorno dopo, ma poi io sono morto e quindi ma sono risorto. Esatto. Ciao a tutti. Ciao.